Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo alla Smart Area del CNR, questa sera non lontano da Pisa, dove vi abbiamo portati già in passato per parlare di un progetto che sta sviluppando appunto i CNR ISTI, ossia la messa a punto di telecamere smart dotate, diciamo così, di una loro propria intelligenza, grazie alla quale è possibile realizzare dei sistemi di monitoraggio di nuova concezione. Il progetto procede, direi a sprombattuto, quando l'avevamo lasciato le smart cameras erano in grado da sole di monitorare ognuna una cinquantina di stalli di parcheggio, per ognuno dei quali queste telecamere fornivano al sistema di parcheggio intelligente un'informazione sintetica binaria del tipo libero o occupato. Il lavoro, come dicevo, è andato avanti e le capacità di queste telecamere sono state estese a nuovi ambiti ed è precisamente di questo che parleremo stasera. Diamo quindi il benvenuto, anzi il bentornato, alla responsabile del progetto Smart Area della CNR, Irina Ferri. Buonasera, buonasera Irina. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, senta, ricordiamo intanto quella che è la caratteristica fondamentale di queste telecamere che le distingue dalle normali telecamere usate per la sorveglianza che possiamo vedere ormai ad ogni angolo di strada. Sono telecamere interamente sviluppate qui da noi, in realtà sono piccoli computer, abbiamo utilizzato sia dei Raspberry dotati di una micro telecamera, sia delle piccole schede che sono state sviluppate interamente da noi, abbiamo usato due tipologie di hardware diverse per fare delle sperimentazioni. Quello che le caratterizza è il fatto di essere a bassissimo costo, assemblate da noi e sviluppate con del software proprietario del CNR. Ecco, però dicevo, l'aspetto fondamentale è che queste telecamere non trasmettono dei filmati. Assolutamente no, c'è un'elaborazione a bordo, l'informazione che viaggia è semplicemente binaria, 1-0, che vuol dire parcheggio pieno, parcheggio occupato. Parcheggio oppure non più, oggi prima l'unica informazione era di questo tipo, no? Parcheggio libero, parcheggio occupato, adesso invece ci sono tutta un'altra serie di informazioni, ma sempre sintetiche, non parliamo di filmati grezzi, no, che queste telecamere occorrerebbe anche troppa banda. Infatti, e che queste telecamere sono in grado di produrre. Quindi quali sono queste nuove funzionalità, queste nuove situazioni che le telecamere riconoscono, possiamo forse dire così? Avevamo pensato che era abbastanza stupido tenere lì delle telecamere dotate di un'intelligenza a bordo semplicemente per fare un monitoraggio di parcheggi. Siccome le telecamere possono identificare i movimenti, allora abbiamo pensato di utilizzare queste telecamere anche per la sorveglianza esterna dell'area. Cosa rilevano le telecamere? Le telecamere rilevano i movimenti, però quelli che vengono ritenuti come movimenti inusuali sono quelli che avvengono o di sera dopo le ore 20 oppure in giornate non lavorative, cioè tipo festivi, sabati e domeniche. Così come è un movimento anomalo, per esempio lo scavalcamento della rete di recinzione dell'area. Quindi avete identificato una serie di eventi anomali, tra cui anche semplici movimenti in orari in cui però non dovrebbero esserci, esatto. Oppure eventi specifici come uno che scavalca una recinzione. A questo punto la singola telecamera, diciamo che identifica un evento di questo tipo. Che cosa succede? Che cosa fa lei per cominciare? La telecamera segue l'evento fin quando l'evento rimane nel suo campo di azione, dopodiché condivide questa segnalazione con le telecamere accanto e piano piano l'informazione passa di telecamera in telecamera fin quando non arriva a una telecamera speciale che è stata comprata, non è sviluppata da noi, che è una telecamera zoom che serve per zoomare l'evento. Quindi diciamo che le telecamere, quelle nostre, le smart, seguono l'evento pian piano fin quando non si arriva alla telecamera zoom più vicina, perché ne vengono installate una ogni tanto, sì. La quale zooma sull'evento e rileva una situazione di anomalia. E qui partono una serie di azioni che possono essere semplicemente avvertimenti verso la guardianeria che qualcosa di anomalo sta accadendo. E questa è anche l'unica situazione in cui a un certo punto viaggia un filmato. Giusto? Può viaggiare il film, fatto il filmato e a questo punto, se la guardianeria lo richiede, il filmato viene trasmesso. Ecco, un altro elemento di novità di questo sistema è che c'è una capacità, diciamo, di seguire lo sviluppo di un evento. Ce l'ha già spiegato quando ci diceva che le telecamere si passano l'informazione l'una con l'altra, ma in realtà questa continuità si spinge anche dall'esterno dell'edificio anche all'interno. È corretto? Corretto. Cosa succede esattamente? Se supponiamo una persona ha scavalcato la rete di recinzione e questa persona rimane nell'area intenzionata a entrare dentro gli edifici, le telecamere che sono predisposte a seguire l'evento esternamente lo seguono fino alla porta di ingresso dell'edificio. Una volta entrata dentro l'edificio questa persona viene a questo punto presa in gestione da quel sistema di smart building, cioè il sistema di monitoraggio degli uffici. Esiste cioè negli uffici una serie di sensori che permettono il riconoscimento facciale del proprietario dell'ufficio oppure di tutte le persone che sono autorizzate ad entrarci, a entrare nell'ufficio, e chiaramente manda un segnale di allerta qualora entri una persona non autorizzata e il proprietario dell'ufficio non sia in ufficio. Mi spiego. Il sabato pomeriggio io esco dall'ufficio, il venerdì sera aziono tramite il mio smartphone il sistema di anti-intrusione del mio ufficio e supponiamo che alle 2 del pomeriggio qualcuno forzi la serratura, ma io questo non lo so se la forza o no, comunque entri nel mio ufficio. Io non sono in ufficio, l'ufficio è vuoto, il sistema di sensing, cioè di vede che c'è un estraneo sostanzialmente rispetto a chi frequenta abitualmente. Infatti, innanzitutto un messaggio di avviso a me sul mio cellulare e in contemporanea un messaggio di avviso verso la guardianeria. A questo punto la persona che ha forzato, quindi è un intruso nel mio ufficio, la foto di questa persona può essere vista solo dalla guardianeria o dalle forze dell'ordine qualora queste vengano chiamate. Non distruggete l'intruso con un laser. Non distruggiamo, no. Per ora ancora no. Per ora no, va bene. E potrebbe essere questo uno degli sviluppi futuri a cui state pensando? Stiamo pensando delle cose sempre più meno cruente, elaborate per il sistema di anti-intrusione. Pensiamo che sia un uso molto comodo, diciamo, per le forze dell'ordine, soprattutto ci stiamo orientando su grandi folle di persone dove si deve cercare delle persone in particolare, dei ricercati, persone pericolose così, dove ci possa essere quindi bisogno di identificare precisamente della gente nelle grandi masse. Pensiamo a questo ora. Ecco, senta, dicevamo che le vostre telecamere in questo momento sono in grado di percepire, di identificare un evento preciso come lo scavalcamento di una recinzione, no? Che altri eventi immaginate che verranno riconosciuti dalle prossime generazioni di telecamere intelligenti? Ma dipende da come viene addestrata la telecamera, tutto sta nell'addestramento, cioè io devo insegnare alla telecamera a riconoscere una cosa particolare, una persona che sviene, quindi applicazioni per esempio nel campo industriale oppure dove ci sono persone che devono recarsi in posti pericolosi per il lavoro, persone che si aggirano in modo sospetto, quindi con atteggiamenti particolari, risse, cioè tutto quello che l'importante è addestrare la telecamera, cioè insegnarle a riconoscere dei movimenti o delle espressioni ben precise. Non c'è un limite da questo punto di vista? Non lo so, è la fantasia, diciamo. La fantasia forse è il limite, sì, esatto. Va bene, grazie Rina Ferro. Grazie a voi. È tutto, a domani.